Incontro che diciamo, è stato convocato d'urgenza da Bonfioli a seguito dei scioperi e delle assemblee sciopero che abbiamo svolto davanti ai cancelli venerdì, riunendo tutte le lavoratrici, sia dipendenti di Bonfioli che delle ditte in appalto e in subappalto. È emersa la conferma dell'intenzione dell'azienda di sviluppare nel corso del 26 un progetto sull'automazione parziale del magazzino, che si collega però alla completa internalizzazione delle attività di logistica che da 30 anni sono svolte con contratto di appalto e di subappalto da due ditte esterne in cui lavorano circa 60 lavoratrici e lavoratori. Viene confermato il fatto che questa automazione produrrebbe perdita di posti di lavoro? Potenzialmente potrebbe produrre una perdita di occupazione, quello che noi abbiamo chiesto a Bonfioli e a Confindustria, che era seduta a quel tavolo, di evitare. Noi riteniamo che qualsiasi investimento importante che si svolge su questo territorio deve essere fatto non solo negoziando e contattando col sindacato, ma anche evitando crisi occupazionali, quindi garantendo la tutela per tutte e tutti i lavoratori che lavorano nel sito, a prescindere dalla tuta che indossa. Che tipo di mansioni verrebbero sostituite? Su questo è stato riconvocato un incontro il 2 marzo in cui l'azienda ha preso l'impegno di dettagliare specificatamente l'impatto di questo investimento sulle singole attività e quindi di conseguenza sulle lavoratori e lavoratrici che dovrebbero essere necessari ancora nell'attività di logistica e soprattutto quelli che purtroppo invece dovrebbero essere ricollocati. Per noi la priorità ovviamente è che si sviluppi un percorso per una ricollocazione nel sito di quei lavoratori e di quelle lavoratrici. Visto che la vicenda, come dire, riguarderà forse in futuro sempre più lavoratori, voi già dalla settimana scorsa avete detto chiaro e tondo che come dire, l'automazione, l'arrivo di robot o di tecnologie che sostituiscono appunto gli esseri umani non devono produrre perdita di posti di lavoro. Assolutamente, penso che in questa regione, in questa provincia abbiamo tutti gli strumenti per poter affrontare sfide tecnologiche che abbiamo davanti senza determinare un'ulteriore crisi occupazionale che si sommerebbe a quella che purtroppo già stiamo vivendo da 3 anni a questa parte, con un calo costante della produzione industriale che ha impattato in maniera importante anche sulla nostra provincia. Questo è un territorio dove abbiamo sviluppato anche una contrattazione aziendale importante nel momento in cui le aziende hanno provveduto anche in passato a sviluppare innovazione tecnologica. Questo è un territorio dove in tante aziende si fanno i turni a 7 ore mattino e pomeriggio, e 6 ore di notte. La priorità deve essere trovare degli strumenti negoziali, organizzativi, contrattuali attuali per garantire che qualsiasi innovazione sia un'innovazione per tutte e tutti e non a solo vantaggio delle imprese. Quello che è successo dal nostro punto di vista è grave, però ha determinato una reazione importante che invito tutte e tutti a valutare per quello che è, cioè per una cosa importantissima. Venerdì davanti a quei cancelli non c'erano solo le lavoratrici e i lavoratori dell'appalto, che sono quelli più esposti in questo momento rispetto a questo progetto, ma c'erano anche le lavoratrici e i lavoratori, gli operai e gli operai di Bonfioli. E penso che questo sia un segnale chiarissimo rispetto al fatto che quei lavoratori e lavoratrici hanno capito che non è solo un tema di solidarietà, che pure in questo tempo buio che stiamo attraversando non è banale e scontato, ma anche un tema di non voler accettare che le decisioni strategiche delle imprese vengano prese sulla testa delle lavoratrici e lavoratori senza che loro possano avere voce in capitolo sugli impatti.